24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Questa è la famosa fontana di Trevi. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Senti, io sono italiano oriundo. Ah. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa. E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì. Un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici vicino all'acqua, eh? Allora la compro io. Dimmi un po', paesà, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni della carne. Ok, paesà, complimenti. Domani vieni al consulato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? Quale caparra? Bravo Fritz, se nel frattempo viene qualcuno che se lo vuol comprare, che fai? Io aspetto a te. Giusto. E quando? Mezzo milione. Ah no, sono troppo mezzo milione. Ti do 100.000 lire. Ma che sei pazzo? 100.000 lire per una massa d'acqua di questa portata. Oh, ma che in America così fanno gli affari? Vice sindaco Dario Nardella, buongiorno. Buongiorno. Già Totò mi sembra che aveva capito che si poteva fare soldi con i beni culturali, è così? Beh, pare proprio di sì, aveva capito che c'era un valore inutilizzato. Ecco, senta, a Firenze, nella sì. sua città, c'è stata polemica per l'affitto a una banca per 40.000 euro del cappellone degli spagnoli. Ecco, lei è convinto invece della bontà della scelta? Ma io sì, ho sempre detto che difendo il principio, anche perché qui non parliamo di vendita dei beni culturali, appunto, come avrebbe fatto Totò, ma di fruizione, utilizzazione, direi anche valorizzazione dei nostri beni culturali. E, quindi se si possono dare ai privati opportunità di usare i beni culturali per iniziative che non danneggino questi beni, naturalmente, ma portino risorse economiche nelle casse pubbliche che poi vengano riutilizzate per la tutela e la valorizzazione di quegli stessi beni culturali, io non vedo perché si debba rinunciare. Ecco, infatti, al di là della polemica specifica che c'è stata sul tema, c'è il tema del rapporto tra pubblico e privato nell'uso e nella valorizzazione dei beni culturali. Senta il suo leader cosa ha detto. Quando abbiamo un patrimonio come quello, è mai possibile che si debba aver paura, uno, di privati che vogliono investire per rimetterlo a posto? Due, di strutture che vogliono gestirlo in modo più serio? Se io penso alle polemiche che ci sono state perché Diego della Valle voleva mettere 25 milioni di euro per il Colosseo e noi glielo facevano mettere, dico che siamo un paese che sta perdendo delle occasioni. Ecco, che cosa ci insegna il caso del Colosseo, che è stato addirittura quasi comico? Beh, comico ha ragione, è il termine giusto, perché ricordo della Valle annunciarono per la prima volta nel 2011 questa intenzione. Sono passati praticamente 4 anni e ancora non si sa niente. Insegna prima di tutto che l'amministrazione pubblica deve fare una scelta, e se accetta di dare ai privati la possibilità di utilizzare i beni, deve mettere delle regole chiare e soprattutto non deve abbandonarsi alla tecnocrazia e alla burocrazia, altrimenti finiamo per scatenare dibattiti e non risolvere neanche nulla su questo. Senta, il Louvre addirittura ha affittato un suo spazio per la sfilata di Christian Dior. Ecco, quello in qualche modo è un esempio da seguire, di questo stiamo, anche di questo stiamo parlando? Sì, io penso di sì. Guardi, come a Dior è successo anche in chiave fiorentina a Ferragamo, quando Ferragamo ha sfilato al Louvre e addirittura ha avuto anche la possibilità di una visita privata esclusiva della Gioconda, a Firenze i giornali, i media e i commentatori applaudivano e denunciavano il fatto che noi non fossimo alla stessa altezza della... Ecco. Del Louvre, salvo poi lamentarsi quando proviamo a fare come fa il Louvre. Ecco, Nardella, ma quali devono essere i vincoli per questo rapporto pubblico-privato corretto, che sia a favore poi finale dei beni culturali, ovviamente? Lei ha ragione, Minoli. Infatti io ho detto che se sarò sindaco porterò nel primo consiglio comunale un regolamento sulla valorizzazione e fruizione. I vincoli sono, prima di tutto, l'utilizzazione da parte dei privati di questi monumenti e beni non deve mai danneggiare il bene o comportare una diminuzione della tutela. Secondo, vincolare il finanziamento, quindi la sponsorizzazione, ad un obiettivo che è sempre correlato al patrimonio, quindi i soldi che incassi li vanno, devi reinvestire, certo, anche nella formazione, per esempio dei giovani, ecco, storia dell'arte. Quindi due principi chiari, le regole che, sull'utilizzazione, che non danneggino e che siano anche predefinite, e poi reinvestire i soldi che prendi sul patrimonio, ecco, culturale. Ma sono polemiche che sono legate in qualche modo a una visione statica dei beni culturali, soltanto conservativa. Secondo me sì, statica ideologica, legata al principio che i monumenti siano cosa nostra, nel senso di cosa nostra dello Stato, ma non dello Stato persona, dello Stato come apparato istituzione. Io penso invece che con delle regole chiare e trasparenti i beni culturali possano essere fruiti da tutti i soggetti, anche coloro che portano interessi, ecco, economici. Ma per esempio il British Museum ha fatto, per capire a che punto siamo di arretratezza, una, sì, mostra, è un documentario su Pompei che è stato venduto in tutto il mondo, la mostra visitata, ha incassato 12 milioni di euro in 6 mesi. Noi nulla. È sempre il problema dei vincoli. Eh sì, l'ha detto lei. In questo caso però il problema del fatto che siano vincoli poco chiari e del fatto che in Italia non abbiamo ancora scelto un modello molto chiaro, sì, e siamo sempre ambigui, e alla fine però le opportunità ce le portano via gli altri paesi e gli altri musei. Ecco, ma a proposito di Pompei, io le faccio sentire la testimonianza del senatore Riccardo Villari, che era l'ex sottosegretario dei beni culturali, è abbastanza inquietante. E Padesa, un consorzio francese, aveva offerto 200 milioni di euro per gestire Pompei, poi cos'è capitato? Non sembrò naturale convocare tutti i protagonisti di quella vicenda per valutare l'effettiva disponibilità al Ministero. Il colpo d'occhio, diciamo che era disincentivante, perché erano circa 15 soggetti intorno al tavolo per discutere. I francesi sono spaventati? No, li vidi perplessi, diciamo così, però loro nonostante tutto confermarono la disponibilità a sponsorizzare i lavori a Pompei per una quindicina di milioni l'anno per 10 anni. Si poteva anche continuare, la cosa era molto interessante. Quando si entrò nel vivo della discussione, in verità le procedure erano talmente farraginose, insomma ci fu, diciamo, quindi la contrapposizione tra chi giù le mani da Pompei, per intenderci, all'italiana, cercava di aprire le porte, insomma alla fine non se n'è fatto niente. Io ho la sensazione che c'è una gelosia da parte di quelli che ci lavorano, anche affettori del Ministero, che impediscono quello che ad esempio a Ercolano è possibile, è stato possibile. Ecco, 800 24 00 24, numero verde, SMS 349 238 6666. Pietrangelo, questa testimonianza è abbastanza inquietante, questi sovrintendenti, cioè queste burocrazie bloccano proprio. Come no? Posso citare una espressione che storicamente ha segnato il rapporto tra le istituzioni dello Stato e il lavoro culturale. Ed è in un articolo di Montanari oggi sul Fatto, viene riferito che dopo aver imposto il prestito di pezzi del Rinascimento italiano per una mostra a Londra negli anni 30, Benito Mussolini disse che avrebbe preferito farsi cavare tutti i denti piuttosto che discutere ancora una volta con i soprintendenti. Ed era Mussolini. Insomma, una polemica che viene da lontano. Viene da lontano anche perché non si è mai capito chi debba tenere le chiavi dei nostri musei. Chi debba gestire questo patrimonio e finire invece nella greppia della burocrazia. Ecco, senta cosa ha detto, senta Nardella, che cosa ha detto Philippe Daverio, che se ne intende di questo. Professor Philippe Daverio, grande critico d'arte, popolarissimo divulgatore. Insomma, le polemiche sull'affitto dei luoghi d'arte a giuste condizioni va superata, no? Io penso proprio di sì, perché da un lato ci lamentiamo che non ci sono più soldi, dall'altro non sappiamo come mettere a frutto il patrimonio che abbiamo. Cosa si può imparare, professore, dal rapporto tra pubblico e privato fuori dall'Italia? Basta guardare come sanno fare le cose gli americani, cioè se l'ente pubblico, la funzione pubblica è forte, il mondo privato segue le sue indicazioni, se è debole il mondo privato dà le sue proprie indicazioni, quindi dipende tutto dalla forza dell'ente pubblico. Ecco, ma insomma vanno sfruttati meglio comunque i nostri beni culturali anche dal punto di vista economico. I nostri beni quelle tavole sono un'enorme risorsa che serve come prima cosa a formare gli italiani e la loro fierezza, non solo ad essere messi in vendita. Ma una volta svolta questa funzione è anche corretto che tendino, quando possono, ad essere redditivi. E credo che da questo punto di vista bisogna inventare una logica che ci manca totalmente, che è una logica di fundraising, di partecipazione, una serie di robe che corrisponderebbero a una crescita della coscienza nazionale formidabile, ma che vedo all'orizzonte molto lontano. Ecco, ma l'ostacolo da superare intanto sta nelle burocrazie delle sovrintendenze? L'ostacolo da superare sta nel fatto che ogni sovrintendente è convinto di essere il proprio padrone della cosa, cioè fa vedere la roba come se fosse propria e non si accorge mai che è lì perché svolge una funzione pubblica. Cioè in Italia il taxpayer non è partecipativo, è una vittima e basta. Il passaggio successivo che servirebbe anche per la democrazia in tanti altri campi è di considerare che il taxpayer è un protagonista, non è una vittima. Un protagonista, non è una vittima. 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Mario, oggi sei a Milano. Buongiorno. Ciao. Hai sentito, insomma, mi pare che questo problema dei sovrintendenti e della, come dire, dell'aggiornamento nell'uso, la mia posizione, della mettere a reddito la i mia, nostri la limiti. Mia posizione la conosci, no? È moderata, cioè, vanno cancellati in questo come caso i denti, allora. Sì, sì, fai togliere i denti, sì, via. Però anche perché altrimenti non la risolvi, guarda, perché è uno dei problemi, non l'unico. Segnalo solo sommessamente, quasi sottovoce, che di questo tema, che secondo me è fondamentale nel vero senso della parola per il nostro sviluppo, non se ne è fatto mai cenno durante una delle campagne elettorali più brutte che io abbia mai visto. Nardella, sente? Chiamato in causa? Sì, sì. Lei ha detto che invece... Nella campagna di Firenze invece è entrato il tema, anche perché Firenze è una città che è al centro dell'attenzione, ma io ho detto come che Daverio, la questione non è il se, ma il come, e sul come il problema abbiamo regole ambigue, e nell'ambiguità la burocrazia sguazza. Spesso le stesse sovrintendenze sono vittime, perché ora anche le sovrintendenze ai poli museali hanno il problema di trovare i soldi e devono valorizzare i loro beni. Però se non riescono a se non vogliono cercarli. Esatto, quindi il tema è intanto che, visto che l'uso di questi beni è un privilegio, i privati devono pagarlo, ma come pagarlo? Con regole semplici, molto chiare e anche inflessibili sulla tutela, e poi con delle sorte, diciamo, di fasce, di tariffe che siano basate anche su criteri di valorizzazione del patrimonio. Certo, ecco, onorevole Nardella, senta questa lettera scritta da una ragazza calabrese, riportata nel libro Viaggio in Italia, di Roberto Napoletano. Caro direttore, dopo tanti anni di sacrifici mi sono laureata in conservazione dei beni culturali a Napoli. Al suor Orsola Benincasa, che mi ha dato un'eccellente formazione, mi sono messa in gioco da subito, trasferendomi a Firenze ma con un piede a Roma. Ma dopo tanti colloqui senza esito, dopo lavori non pagati, dopo tanti ti faremo sapere e più di 200 curricula inviati al mese, ho dovuto lasciare Firenze. Non sapevo più come mantenermi e sono dovuta tornare dai miei genitori in Calabria. Voglio che lei sappia che ogni mattina mi sveglio e piango. Ma non sono l'unica. Piango disperata non perché io mi sia arresa, ma perché ho perso di vista i miei obiettivi, la mia crescita personale, la mia curiosità. Per fortuna non il coraggio. Sono come un giocatore di scacchi che si sente sotto scacco e cerca la mossa giusta per liberarsi e rimettersi in gioco. Ricominciare a costo di dimenticare chi sono. Ecco, viene da piangere se si pensa che a Roma sono impazziti per trovare 5 custodi per tenere aperti il Colosseo nella notte dei musei. Abbiamo Alberto da Bologna. Alberto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Niente, io volevo spiegare un po' i meccanismi quali sono dei beni culturali. Dunque, i beni culturali sono gestiti da persone inadeguate, soprattutto. Cioè gli operatori, i sovrintendenti, gli ispettori molto spesso non hanno voglia. Lei cosa fa? Lei cosa fa, Alberto? Io ho uno studio praticamente di restauro dei beni culturali da tutta una vita. Dunque i soldi, la mancanza di soldi, adesso siamo in una situazione drammatica a livello finanziario. Vabbè, quindi, cioè, la domanda è che quando c'erano i soldi tornavano a Roma. Non venivano investiti? No, non venivano investiti, cioè i soldi venivano stanziati da Roma, arrivavano in sovrintendenza, nelle varie sovrintendenze, e molto spesso gli ispettori che dovevano gestirli non li gestivano del tutto, quindi tornavano a Roma, e l'anno successivo cosa venivano fatto? Il Ministero di Roma ne stanziava meno. Diventavano residui passivi, va bene, grazie. Onorevole Nardella, esiste anche questo problema? Sì, soprattutto nel passato. Ora i poli museali hanno autonomia amministrativa ed economica e quindi teoricamente dovrebbero avere più facilità in questo. Ed è questo davvero il paradosso, che fa rabbia, perché o si dice, signori, in modo ideologico i beni culturali li decide, li usa solo lo Stato, punto e basta, i cittadini sono sudditi, come diceva D'Averio, estranei, oppure se si sceglie la strada, che io preferisco, di cui non dobbiamo vergognarci, del coinvolgimento anche dei privati, allora dobbiamo introdurre regole semplici e chiare e soprattutto mettere in condizione la politica di dare indirizzi alla burocrazia e non il contrario. Ecco, ma intanto abbiamo sentito questa lettera veramente, veramente struggente, perché quanto servirebbero giovani così per il rinascimento dei beni culturali? Che poi sono, noi ne parliamo, ma poi dopo sono un corpo morto invece che essere linfa vitale della nostra economia, oltre che della nostra cultura. Moltissimo, Minoli, moltissimo. Io insegno tra l'altro proprio qui a Firenze diritto dei beni culturali e vedo tanti giovani che un domani si laureeranno proprio su questi temi, e noi dobbiamo dare opportunità a loro proprio sulla sfida della fruizione e della valorizzazione. A Palazzo Vecchio abbiamo deciso qualche anno fa di tenere aperto il museo fino a mezzanotte. In questo modo abbiamo potuto dare lavoro e opportunità a molti giovani che sono usciti dall'università della città. Non è vero che con la cultura non si mangia. Si mangia e si stramangia. Si mangia e si stramangia, ma soprattutto formiamo i nostri giovani, nuove generazioni di professionisti del patrimonio culturale. Grazie, onorevole Nardella. Grazie a lei e ai radioascoltatori. Pietrangelo, mi pare che... C'è un fatto che è assurdo ed è tipico del carattere italiano di unire l'assurdità alle cose concrete. Il fatto è che l'investire nel patrimonio culturale e artistico e anche nella tutela del paesaggio è il primo elemento per la ripresa economica. Ed è assurdo che nessuno lo abbia capito. Ed è assurdo che, appunto, come ricordava prima Mario, che in questa campagna elettorale non se ne sia parlato. Ecco, qui ci scrive Giorgio da Firenze, d'accordo con Nardella, ma l'affitto non deve impedire la visita ad altri come è stato per il Ponte Vecchio. Beh, naturalmente basta contingentare e decidere quali sono i giorni e i momenti, non credo che sia il problema. Mario? No, io sono molto colpito dalla lettera che ha letto Sara. Ma se fosse stata mia figlia? Sì. Cosa avrei dovuto pensare da padre di una situazione del genere? Io sono veramente colpito da questa cosa, cioè dal fatto non che i ragazzi, i giovani vadano via, questo è bene, dal fatto che nessuno poi voglia tornare, perché non ci sono le possibilità, no, e ma anche soprattutto quelli qualificati. Certo, e infatti questa è una super qualificata che non riesce. Tra l'altro è appunto il contrasto con la situazione che si è creata occasionalmente a Roma per la notte dei musei è incredibile. No, perché è pazzesco. Cinque addetti non si trovavano, no. E il ministro si arrendeva praticamente. Insomma, una cosa assolutamente surreale. Ettore da Firenze? Pronto? Sì? Mi sente? Sì. Dica. Buongiorno a lei. Buongiorno, dica. Io sono un professionista, sono un architetto e ho avuto la fortuna di lavorare su un'opera immensamente bella che è La Porta del Paradiso di Ghiberti. Sì, mi dica. In 10 anni e più di contatto ho ravvisato questa tendenza a, come si dice, privatizzare in maniera quasi esclusiva da parte sia, insomma, degli amministratori quanto degli operatori dei beni che sono invece di proprietà non solo italiana, ma di tutto il mondo. E quindi questo naturalmente è quello che abbiamo detto, cioè i beni culturali vanno assolutamente tutelati, valorizzati, ma vanno anche fatti vivere, e quindi se c'è un mercato che in qualche non è privatizzare, utilizzare, non è privatizzare, è dargli una seconda vita. Grazie. Mix 24. Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, quello che non ti frega e che non ti tradisce. Guarda che non sono io. Pietrangelo, chi è che ti ha fatto venire in mente oggi questa canzone? È perché Metropolitana oggi si aggirava, girava un angelo a piedi nudi, il diavolo in bottiglia, e raccontavano della pace fra gli ulivi e della rivoluzione, e poi appunto le buste della spesa di buon mattino, già all'alba, le buste della spesa, e poi uno che aveva una faccia, anzi il portamento, la prestanza e l'orgoglio del principe, Francesco De Gregori in persona, in Metropolitana, la gente che si avvicinava, e lui: guarda che non sono io quello che stai cercando. Ah, compagno di viaggio oggi. Ed io gli dico: scusami, però non so di cosa stai parlando, sono qui con le mie buste della spesa, dove ti sto scappando. Intanto il tema che abbiamo trattato prima sta suscitando un grandissimo dibattito sulla rete, e uno per tutti, segnalo Flavio da Parma, che dice: sfruttare i soldi raccolti dai privati per promuovere il nostro paese come museo del mondo. Ecco, questa è un po' la linea sulla quale abbiamo cercato di articolare la nostra discussione, e torneremo, perché è la nostra vita e del nostro futuro che si tratta. Intanto le bolle. Maestro Shifu, che succede? Pirati? Vandali del Monte Vulcano? Qualunque cosa sia, io li stendo in un lampo. Beh, era Kung Fu Panda, quindi li stenderà in un lampo, ovviamente. Certo. Un bellissimo cinema d'animazione, e quello che vi racconto però non è cinema, è la realtà che supera ovviamente la fiction in molti casi. Come parlo sempre dello spionaggio. Sono tornati i vecchi tempi, cari amici che ascoltate la radio, e la geopolitica domina finalmente di nuovo il campo, anche perché tutto il resto era sovrastruttura culturale che non corrispondeva alla realtà della storia. Qualche giorno fa l'FBI ha accusato 5 militari cinesi di cyberspionaggio, è la prima volta, è arrivata subito la risposta di Pechino, perché ad azione corrisponde sempre una reazione uguale e contraria. In questo caso è stato arrestato l'ex capo di JP Morgan in Asia con l'accusa di corruzione. L'hanno arrestato a Hong Kong, lo hanno poi rilasciato sotto cauzione, non può lasciare Hong Kong, ma d'altronde è così, se sono tornati i vecchi tempi, allora welcome back Cold War. Che vecchi tempi siano, insomma. Che vecchi tempi siano, per cui non mi stupisco, per esempio, che il generale William Shelton, il capo delle forze spaziali del Pentagono, sì, spaziali, ho detto proprio così, dica che c'è il rischio di una guerra con la Russia, lassù, tra le stelle. E allora, se tutto torna, che guerre stellari siano. La prossima volta prometto di mettere la marcia di Darth Vader, però insomma, pure questa non è male. Vuoi che parliamo un po' di debito pubblico? Parliamo di debito pubblico, perché mi pare che sia il caso. Allora Giovanni, nei GR hai visto, c'è lo spread che sale, ci sono un paio di cose connesse che adesso cerchiamo di raccontare con la più semplici possibile. Allora, noi paghiamo il debito, no? Lo emettiamo e poi lo dobbiamo rimborsare ai sottoscrittori. Bene, l'Italia ha accorciato i tempi medi di rimborso del debito pubblico, fa nuove emissioni e le fa più corte nel tempo. Nel 2011 il tempo medio di rimborso era 7,25 anni, quindi 7 anni e 2 mesi. Nel 2014 si è accorciato a 6,2, 6 anni e 2 mesi. Questo cosa vuol dire? Che si fida meno il mercato di noi? No, questo vuol dire che il mercato ha appetito, compra, perché comunque il debito italiano... C'è tanta liquidità. Sì, esatto. Il problema è che stanno maturando i rimborsi, per cui nel 2015 noi abbiamo 248 miliardi di euro di debito che va a maturazione, a scadenza, e 58 miliardi di interessi. Allacciate quindi le 248 più 58? Sì. Sì, vabbè, quindi bomba. le tasse aumentano per forza. Non allora lo so. Sentiamo che tagli. Cosa. Ma tagli e tasse, tutto. Insomma, vediamo un po' cosa ci dice la nostra quota rosa. Beh, la quota rosa oggi è muta, non parla. Cosa è successo? Eccolo. L'anno prossimo non si pagherà più l'IMU e nemmeno la TARES, che doveva sostituire la TARSU. Ci sarà una nuova tassa che non si chiamerà TASER, come la pistola che dà l'elettroshock, ma TRISE. Il fatto è che la TRISE, come un missile a tre stadi, contiene altre due tasse, la TARI e la TASI. Se abitate nella vostra casa, pagate tutta la TRISE, dunque sia la TARI che la TASI. Se siete un inquilino, pagate solo la TARI, ma anche una quota della TASI. Se siete il padrone di casa, pagate la TASI, ma non la TARI. Più IMU, si capisce. Ma l'IMU, raddoppiata, la pagate anche se siete in affitto su quell'appartamento dove abita vostra madre, che però pagherà la TASI, lasciando a voi la TASI che avete evitato sulla casa dove pagavate la TARSU. E invece ora, scampata la TARES e aggirata la TASER, pagate solo la TARI, ma non l'IMU. Adesso ripetete. Questo fino a qualche mese fa. E adesso... Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, Giovanni. Abbiamo visto crescere le nostre tasse, le abbiamo seguite passo passo. La TASI e la TARI hanno anche un nome nuovo, sai, IUC. E poi la TASI starà un po' con i proprietari, un po' con gli affittuari, ma non sappiamo quanto, perché è uno spirito libero la TASI. La TASI, che poi inizia proprio come una rockstar, il suo tour estivo. Il 16 giugno e lo concluderà a settembre. Le tappe sono su tutti i giornali. Beh, riusciamo, Giovanni, a fare una telenovela su queste tappe. Giovanni, sì, dimmi, no, Mario. Solo per dire che eravamo stati facili profeti, sia sulla legge elettorale che sulla questione fiscale, perché poi la TASI è stata rinviata in alcuni comuni perché la modulistica, appunto, non è pronta. È quello che diceva. Usiamo che la diceva parola sempre. Appropriata? È un casino, dai, non si è mai visto. Salamino. Oggi Salamini li devo fare doppi, perché la discussione che hai aperto tu sui beni culturali e il patrimonio ha sollevato un grande vespaio in rete, e è arrivata anche la protesta di Edoardo Silos Labini, responsabile del settore culturale di Forza Italia, dicendo: caro Pietrangelo, ho lanciato un dipartimento cultura con proposte concrete, perché state omettendo questo dato? Non l'abbiamo messo. E chi lo mette? O semplicemente... Io ho risposto via Twitter dicendo che nel flusso della campagna elettorale sono emersi altre argomentazioni, altri discorsi, però vorrei ricordare che proprio noi di Mix 24 abbiamo ospitato l'immenso, il grande, unico Nazareno Carusi, che in questo dipartimento è una voce più che autorevole. Detto ciò, chiuso quindi questo primo Salamino, vado al secondo Salamino rileggendo e proponendo agli ascoltatori una bellissima intervista che oggi Repubblica offre, di Massimo Cacciari, dove Massimo Cacciari, nel magnificare la gestualità, la presenza del corpo di Beppe Grillo in questa campagna elettorale, lamenta poi la madre di tutte le disgrazie, cioè aver candidato alle politiche Bersani, e individuando in Bersani l'ostacolo primo della sinistra, al punto che io poi vorrei aggiungere, non l'ha detto Cacciari nell'intervista, ma sono sicuro che ce l'aveva qui sulla punta della lingua, le grandi disgrazie si accompagnarono al fatto che i risultati furono già traumatici nell'avere determinato l'elezione di Pietro Grasso al Senato, di Laura Boldrini alla Camera, di aver fatto lo streaming, e quindi ricordiamolo, evochiamolo per voce, quasi fosse un rientro in grande stile. Se piove, piove per tutti. È grande! È un grande! E il maiale non è tutto di prosciutto. Teniamo conto. Grande Crozza. Oi. Giovanni. Tra gennaio e maggio del 44 è stata combattuta, è stata ricordata pochi giorni fa, è stata combattuta in Italia la battaglia di Monte Cassino, una battaglia difficilissima, anche se non soprattutto per i contrasti ai vertici delle forze alleate. A Monte Cassino, tra gli alleati c'erano molti generali abili ed esperti. Purtroppo, però, nel comando alleato c'erano anche problemi al vertice, in particolare per quanto riguarda il generale americano Mark Clark. Il problema fu che Clark non era mai stato comandante in capo. Aveva fama di essere un buono stratega. Si diceva che fosse molto abile, eppure a Monte Cassino non ha dato prova di nessuna di queste due qualità. Il generale Patton, anzi, ha detto che Clark era troppo sicuro di sé. Marina Meglione racconterà la storia intera di Monte Cassino nella seconda ora dopo il giornale radio. Intanto Mario, vai con la bolla. Senti qua. La Abenomics è costituita da tre frecce. La prima è quella di una politica monetaria audace. La seconda è costituita da una politica fiscale flessibile. La terza freccia continuerà a incentivare gli investimenti privati. Beh, insomma, abbiamo riproposto le parole di Shinzo Abe perché c'è stata una riunione della Banca del Giappone che va seguita con molta attenzione in tutto questo periodo, che ha confermato la politica ultraespansiva che punta a incrementare la base monetaria del Giappone. Infatti, di circa sì. 60-70 trilioni l'anno, quindi parliamo di una cosa mostruosa. Mostruosa. Però insomma la cosa va nel senso che le previsioni economiche continuano a restare positive, c'erano un po' di dubbi. La Banca del Giappone ha segnalato che ci sarà un rallentamento nei consumi perché l'IVA è aumentata di 3 punti, adesso scatta l'aumento, infatti c'è stata una buffata di consumi nel trimestre precedente, ricorderai che segnalammo il dato di più 5,9% alla fine del PIL, che è una cosa, un però balzo dura, enorme. Intanto dura. Dura, ci sono delle incertezze segnalate, arrivo al punto che ci interessa di più a noi, mercati emergenti che hanno alcuni problemi ma stanno rientrando dei flussi di capitali, la forza della ripresa americana che è ancora da testare, diciamo, però attenzione, segnalano tensioni sul debito pubblico in Europa. Stiamo attenti a che cosa succederà sul debito pubblico nelle prossime settimane. Ripeto, guardate la dinamica dello spread in questi giorni. Allo spread in questi giorni. Esatto. Di elezione, intanto abbiamo due ospiti di eccezioni che sono tornati a trovarci. Dudu e Aiace Telamonio in diretta per voi. Buongiorno, buongiorno, parlo io perché ho le scuole alte e capisco il linguaggio, la lingua, anzi la nobile lingua dei cani. Il primo a parlare è Dudu perché è piccolino e ha bisogno di dire la sua. Mario, è tutto tuo. È una felicità rincontrare Dudu. Io faccio una domanda secca, ma se Grillo ha un grosso risultato e preme, Papi che fa? Punta anche egli alle elezioni anticipate o tiene il governissimo? Papi, tanto per cominciare, se Grillo ha un buon risultato e Renzi cappotta, ma per non sbagliare fa il governissimo e ha promesso non solo la riduzione fiscale per chi ha i cani, ma anche di far entrare ben 200 persone nel guinzaglio magico, tutte tranne Apicella. grazie Dudu. E Aiace, una domanda secca. Sì. Ad Aiace. Ma Caluso in un'intervista oggi ha detto che secondo lui invece il sorpasso non ci sarà. Allora per il Quirinale tutto fermo, bisogna che D'Alema ripassi? Com'è? Dottor Minoli, un po' mi dispiace che sono arrivate le elezioni e finisce il nostro dialogo, ma ben altra campagna elettorale arriva, perché se il sorpasso non ci sarà, e non ci sarà, Napolitano comunque se ne va. Ed è giusto che prenda il molto suo arrabbiato, posto. Molto arrabbiato, eh? Sì. Com'è che dicevo? Ed è giusto che prenda il suo posto una personalità che provenga dalla stessa tradizione, sebbene non migliorista, ma va bene, va bene. Mix 24. Professor Simonelli, canone ieri sera dov'era? Allora, ieri sera serata complicata, perché da tempo, da qualche settimana, molti amici e amiche mi invitano a seguire con maggiore attenzione di quanto faccio Gomorra, dicendo che è questo prodotto eccezionale, venduto in tutto il mondo, che riscatta i dolori della fiction italiana. E le è piaciuto? E io mi sono messo diligentemente a guardare Gomorra e devo riconoscere che è un prodotto ben fatto. Fatto bene. Costruito, sì. Ieri sera anche più asettico del solito, meno violenza. Ma a un certo punto io continuavo a sentire una voce. Provate un po' a sentire sta voce. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve. Benvenuto a chi professore, ha cambiato per forza, è andato su Rai 1, era irresistibile. Non è che mi facciano impazzire le canzoni di Laura Pausini, anche vabbè, perché piacciono a tanti, però cantava. Però ero molto curioso di vedere questo One Woman Show già annunciato e vedere che come se la cavava questa cantante in veste non solo di cantante ma anche di donna che faceva un suo show. Tra l'altro una biografia, le è piaciuto? Un'autobiografia fatta attraverso le canzoni, mica male, sì. Mica male. Ben costruita. Perché non è facile mettersi, adesso si dice sempre mettersi in gioco, ma è meglio dire mettere in scena la propria vita, i propri sentimenti, gli affetti, le amicizie. Insomma, un grande spettacolo su Rai 1, di servizio pubblico, di intrattenimento. Sì, un bello spettacolo, perché come voi sapete io dico che è difficile fare una bella fiction, ma è ancora più difficile fare del buon intrattenimento. Infatti. E allora quando si riesce a fare una serata così... Onore al merito. Guardata onore dalla pioggia, ma non rovinata... con queste amiche, con questi ritorni di vecchie conoscenze, con anche Pippo Baudo, insomma, mi è sembrato carino. Uno spettacolo degno del bene, canone. Grazie professore. Grazie la domenica su Italia 1 va in onda Confessione Reporter di Stella Pende, una giornalista che scava nel dolore dell'umanità. Sara Tardelli l'ha intervistata. Stella Pende, il suo programma, che si chiama Confessione Reporter, va in onda su Italia 1 tutte le domeniche in seconda serata. Ma che cosa deve confessare? Che l'unica vera grande passione è quella di raccontare, di entrare nel dolore degli altri e di passare questa mia speranza e questa mia voglia di far conoscere il mondo dolente agli altri. Ecco, ma perché è importante testimoniare storie geograficamente lontane da noi? È importante che la gente capisca il mondo ed è veramente una fesseria pensare che gli italiani non sono interessati a questo. Basta pensare al successo di Internazionale. Internazionale vende tutte le copie che ci sono in edicola. Perché? Perché racconta il mondo. Ma Pende, lei affronta temi tra interviste, reportage molto scottanti e controcorrente. Altro che le Iene. A parte che le Iene è una trasmissione straordinaria. Però... No, però, per carità di Dio, facciamo parte della stessa famiglia, non sia mai. Credo che noi abbiamo il dovere come Confessione Reporter di confessarci e di fare, di obbligare la gente a confessarsi. Senta, l'elemento che la distingue nel suo modo di lavorare è che lei è uno dei pochi giornalisti che ancora si sporca le scarpe. Perché è sempre più raro vedere giornalisti sul campo? Guarda che non è vero, Sara, ce ne sono tantissimi che cercano di sporcarsi le scarpe. Lo sai che Capucinski, che è stato il più grande reporter del mondo... Sì, ma Capucinski è morto, infatti. Capucinski non c'è più, ma invece è pieno. Mettiamola di dire che non ci sono ragazzi che cercano di fare questo lavoro. Il problema sono gli editori. Non sono disposti a credere, a pagare, a finanziare migliaia di ragazzi, di giornalisti che mi telefonano, giovani, che vorrebbero camminare con me, sporcarsi le scarpe con me... Ma non c'è mai una lira. Pende, lei è un inviato di guerra, ma essere una donna rende più difficile questo lavoro? No, manco per niente. È uguale. Anzi è meglio, ti perché? Aiutano. Perché sono sempre stata aiutata. Quindi momenti difficili mai, Pende? Certo, grandi difficili, c'è pure una gran paura e soprattutto anche una gran tifona. Che cosa le ha regalato questo mestiere? La vita, guarda che non è lirico, la vita insieme ai miei figli. E invece veramente... che cosa le ha tolto? Mi ha tolto l'amore, una parte di amore, perché avrei potuto essere una compagna e una moglie migliore. Mi ha messo tanti complessi di colpa nei confronti dei miei figli, che avevano paura e che io ho lasciato soli per il mio mestiere. Pende, nella sua trasmissione ci sono i reportage d'autore e sono persone famose come attori, sportivi, eccetera, che realizzano un reportage apposta per lei. Ma chi l'ha sorpresa in questi anni? Abbiamo avuto Vauro, Monio Vadia, che sono dei giganti. Martina Colombari, Ciro Ferrara, praticamente tutti avete avuto. Tutti, sì. Però quelli che mi hanno sorpreso davvero sono due attori. Chi? Uno è Luca Argentero e fa parte di una nuova generazione di attori, dove io metto anche Alessio Boni, che ha fatto una cosa bellissima sullo Zimbabwe, che sono disposti a guardare il mondo. Sono tutti molto interessati al diverso e all'altro, e quello mi sorprende, mi piace. Pietrangelo, leggi un tweet che hai ricevuto, che ne riassume tantissimi. Ne riassume tutti, le riassume tutti, è di Valerio Forconi e dice: non investire in turismo e beni culturali in Italia sarebbe come se gli Emirati Arabi bruciassero il petrolio. Ecco, questa è la sintesi del nostro discorso, ci torneremo. Ricordo che nella seconda ora Marina Milone ci racconterà la storia della drammatica battaglia di Monte Cassino, di cui quest'anno ricorrono i 70 anni.